Thank you.

miracoloso. E ci vuol altro? Bambina, non ti crucciar, non piangere. Troppo il martirio. Soffri sola, piango d'amore anch'io. Voi povero, mi sento in solitudine, e voi, capito il cielo e l'aria seca. No, immerso nel torto. Sì, ma non son morto. Ti riscattai dal principe. Poi, ma con qual valsente? L'eredità. Qualche altro omaggio e un biglietto. parte di Maurizio. Un messaggio di lui. Michonne, liberatemi. Siete voi non avreste sempre. Se fa morir volete. Andiamo. Andate pure, amici. Poi vi raggiungerà. Vediamo. Ciao. forza momenti e istrutta ad ogni cosa. Da me ti scrissi. Salvatrice, ti domandi, felice, e felice di te, e te, e apri, trascolori. Gioia, no, voi signore, quali? Mai, me può vederli. Erano là, poi nel fuoco. Oh, credo! Li gettai, e nei dolci fiora mi pare Adriana morta! Morta!